Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Tu continui a dire porcheria, insulti tutti, interrompi, perché sei capone nell'anima. Sei l'unico ebreo fascista che io ho conosciuto nella mia vita. Sei ebreo e fascista. Grazie Vittorio. Perché sei un fascista. Ciao, grazie, ciao. Senti, scusa, fammi dire l'ultima. Aspetta, dopo la pubblicità cosa. Però, dopo la pubblicità. No, subito. Dimmi. Dia a Parenzo andare a fare in culo. Ciao, buona notte. Ciao. Se non hai argomenti, stai zitto, pistolino. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Non ho detto gioia. Buonasera. Io vorrei parlare di puttane. Io mi presento nel collegio di Venezia come candidato regionale. Faccio aprire da nuovo le case di tolleranza. Ti ho domandato qualcosa? E faccio legalizzazione della prostituzione, che da 2007, che erano prostitute nel 1958, adesso ce ne sono più di 150.000 per le strade. Ed è giusto di dargli un mestiere. Dove sei, Veneti? Perché i veneti vanno in Slovenia, Croazia, Austria, Germania. Perché devono andare di là, quando che possono stare qua e pagare le tasse, pagare tutto, legalizzare tutto? E via le mafie nigeriane che controlla questa prostituzione, le maitresse e tutto quello che conviene. Cioè, siamo nel 2020, è finito il bigottismo e le false moralità. Basta, è giusto di dare una svolta. E io dirò Veneto libero, autonomia al Veneto e aprire le case di tolleranza. È un disastro quella Marocchini, puttane, carino. Il partito dei veneti porta un professore a Venezia, dove la cultura per 4 anni non c'è stata l'assessorata alla cultura. Perché non c'è stata l'assessorata alla cultura e a Venezia, che è una città importante? La cultura non è solo biennale, non è solo mostra cinematografica, è tutto quanto quello che concerne. E io, essendo veneziano, sento questa mancanza. Un conservatore che va a pezzi, musicisti che vanno via, biblioteche allagate. Oh, Venezia è l'unica capitale d'Europa. Autonomia, autogoverno e far vivere le città storiche, portando gli abitanti dentro le città, non facendoli emigrare per dare le case in affitto agli americani o fare le D&D. Basta. Viva il partito dei veneti, lo dico un'altra volta. Avevamo un mucchio di puttane in giro. E avevamo sempre l'uccello duro e... Così proprio. Cazzo, comunque è vero. Da quando seguo la zanzara sono diventato nell'ordine primo cocainoma, poi dopo giocatore compulsivo di tutti i giochi d'azzardo possibili esistenti. Ho perso tutti, non ho un amico più, ormai non ho più un soldo, ho perso tutti i soldi, ho perso tutti gli affetti, l'unica cazzo di cose che mi è rimasta è mia moglie, quindi doppia sfiga, cazzo, portate veramente sfiga, ragazzi, ma a me poi proprio di brutto avete portato sfiga. La zanzara porta sfiga, questo si può dire. Per fortuna mi sono un po' ripreso adesso, ma infatti vi ascolto meno. Andate a fare in culo, stronzo. Guarda bene. Guarda la bella. Ah, tutta da fare. Che ti vuoi? Sta finita, vedi? Woo! In collegamento da Roma, David Parenzo! Eccolo qui. qui, eccolo qui. Eccoci qua, buonasera mamma cari amici, mia, buonasera. Non cominciamo con le marchette, non cominciamo con le marchette. Nessuna marchetta, semplicemente un carissimo saluto all'amministratore delegato del Sole 24. Giù. Mamma mia, ragazzi, ma sapete fare solo marchette? Ma potete vivere senza marchette, porca puttana? Una volta senza marchette. Mi costringete a iniziare subito a non salutare nemmeno. In collegamento dal solito letto ad Abano Terme, il signor Alberto Gottardo. Eccolo commosso, qui. Dai. Commosso dalla marchetta che è stata fatta giustamente a Giancarlo Conte, candidato col partito dei Veneti. Candidato zanzaroso, pazzesco. Candidato crucianiano, candidato fantastico, pazzesco. Che difende Venezia con il cuore, con i denti e con le puttane. Pazzesco. Io la trovo una cosa meravigliosa. Ragazzi, questa è l'unica trasmissione radiofonica che ha due candidati alle regionali. Ve li abbiamo svelati, forse oggi ha due candidati alle elezioni regionali. Targati Zanzara. Ho paura della seconda. Allora, sì. Nicola Porro e la vicenda del prete ucciso dal clandestino. Porro era un liberale cresciuto alla scuola di Antonio Martino. Ma è vero. Vi dico subito che i giornali oggi sono un po' incerti sulle aperture, perché ieri è successa una cosa per cui i giornali italiani oggi non possono aprire, cioè hanno ucciso un prete di campagna, un prete degli ultimi, un prete dei poveri, un santo, un eroe, tutti gli aggettivi che oggi si sprecano, che è stato ammazzato da un clandestino e aveva anche un decreto di espulsione. Ma non se ne parla, sapete perché? Perché non è morto per colpa di un nazista, di un fascista, come francamente oggi ha scritto molto bene Sgarbi, oltre che Sallusti, ma è morto perché un tunisino pregiudicato con dei precedenti, non so se pregiudicato, con dei precedenti e comunque con un decreto di espulsione, lo ha accoltellato. Quindi, in questo caso, è, diciamo, come possiamo dire, in questo caso è come se fosse un incidente sul lavoro da parte del sacerdote. Beh, ragazzi, non ha torto, signor Porro, non ha torto, signor Porro. Fosse accaduto una cosa contraria, staremo a parlare qui di omicidio fascista, eccetera, eccetera. Adesso si piglia quello, beh, un matto, stava male, la disperazione. Accoltellato alla schiena, ammazzato con una coltellata alla schiena. Andiamo avanti con Porro. Sallusti dice: non volevano dire immigrato ieri i giornali ieri, pur di non dire immigrato, hanno detto di tutto, dicevano che era un pazzo, poi hanno detto che era un senza tetto, e però non si trova né della sua pazzia né nessuna prova, era semplicemente uno che era irascibile. Beh, uno che ammazza qualcuno, forse anche i fratelli bianchi sono irascibili, ma non è che questa sia una scusante per aver ucciso qualcuno, come non è una scusante aver ucciso Don Roberto. Dai ragazzi, su, c'è uno della Caritas ieri, mi ricordo, di Como, di quelle parti, che dice: beh, è frutto del clima di odio. Ma quello frutto del clima di odio di che? Questi della Caritas che dicono cazzate. È interessante. Quale clima di odio? Questo è uno che ha dato una coltellata a un altro, un clandestino, che non doveva essere lì. Non doveva essere lì. E della vittima non gliene frega un cazzo a nessuno. Guardare l'assassino. Anche perché assomiglia a me, incredibilmente. Se guardate le foto di questo povero prete ucciso, può darsi che vedete le foto del povero prete ucciso, è la mia esatta fotocopia, identica. Non aveva la tua attività sessuale, però, quel prete. Ma che questo cazzo ne sai? Tu che ne sai? Lo puoi sapere, non lo puoi sapere. Sono preti che scopano come ricci, diciamo la verità. Sono preti che scopano come dannati. Anche perché l'attività sessuale di Cruciani mi risulta molto ridotta ultimamente. Ma quando mai? Che cazzo dici? Mi dicono informazioni di prima mano. Ridotta e insoddisfacente. Questo è pazzo totale. Approfondiamo. Ho delle cartuccelle facendo nomi e cognomi. Ancora Porro, ancora Porro, non rompete il cazzo. Facciamo luce su questo. Facciamo chiarezza su questi punti. Questo su Bernasconi, che è capo della Caritas a Como, dice una minchiata con il botto a colori, come mi ha detto qualcuno. Sapete cosa dice? Questa morte è figlia del clima d'odio che si vive in città. Stronzate! Oh. E io mi chiedo, se noi abbiamo gente che pensa queste robe qua, siamo fottuti! Allora ragazzi, torniamo in Veneto, perché ci sono due cose che riguardano il Veneto. Il Veneto, il centro del mondo, non so perché. Oltre al Conte Dolfin. Sì, oltre al Conte Dolfin, ovviamente. No, la cosa fondamentale è questa: c'è un signore che si chiama Donazzan, che fa l'assessore regionale, non è l'ultima dei passanti, diciamo. La Elena, senti l'altro. Che di fronte... Facciamo una grande battaglia contro la droga, io e Elena Donazzan. Di fronte a un caso di cronaca in cui un signore praticamente... ammazza di botte un, non lo uccide, però gli fa molto male, un anziano signore, perché questo qua aveva cercato, no, di intromettersi in un litigio tra questo qua e la fidanzata, una cosa di questo tipo, tra questa e una donna. Lei dice che se fosse passata lì accanto con la macchina lo avrebbe praticamente travolto, lo avrebbe investito. Senti, la moderata. Senti. Allora, attenzione, se io fossi stata uno di quei guidatori, siccome sono una donna non avrei potuto, dopo che vedevo prendere a calci, io l'avrei investito con la macchina, quello spacciatore, si sappia. E non mi me ne frego delle anime belle che diranno, ah, ma l'assessore all'istruzione non deve dire queste cose. Se io vedo un anziano per terra picchiato a sangue, faccio qualche cosa? Non faccio. Care persone che siete passate ieri con la macchina e siete andate via dritte, vi avrei voluto almeno sentire strombazzare, attirare l'attenzione, anche con la macchina intimare, fare paura. Allora ragazzi, il punto è molto semplice. Primo, la donna Zan non poteva sapere, quando tu passi con la macchina non è che puoi sapere se quello è lo spacciatore, quell'altro è la vittima, quell'altro è il colpevole, quell'altro è il picchiatore, quell'altro invece è semplicemente uno che si è intromesso. Non sai un cazzo, non è che se vedi uno che va addosso a un altro piglia e lo investi. Appunto. Cioè, ma che cazzo è sta roba? E poi come fai a sapere che è spacciatore? Lo sai dopo. Dunque, sul momento non puoi investirlo, esatto, con la macchina. No, di che cazzo stiamo nel parlando? Dubbio investi, nel dubbio acceleri. Dai, su, ma di che parliamo? Comunque, un altro protagonista è invece il sindaco di Padova, che si chiama Giordani. Giordani, il suo amico Sergio. Beh, lo conosco poco in realtà, però sì, il buon Sergio, diciamo. Sì. Però, siccome ha un briciolo di potere, allora gli lecchi il culo così, preventivamente. Io non dormo in camere d'albergo pagate da altri. State buoni. Allora, Giordani cosa ha detto? Ha detto: senza criminalità perderemo un sacco di posti di lavoro. Io cosa? Dico, ragazzi, senza cosa? La criminalità è una stronzata. Ci sarebbero poliziotti, eccetera, eccetera, che perderebbero il posto di lavoro. Con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche e militari di Padova, dai, questa è, lo dico sommessamente, una stronzata. Ma non può averlo detto, dai. L'ha detto, sentite. C'è sempre in barolo, oh no. Sai quante persone perdono il lavoro se fosse tutto perfetto? Tutta la polizia, tutti i carabinieri, tutta la questura, voi non sapete più. Non è possibile, tutto vada bene, tranquilli, se no perdiamo il lavoro, c'è un problema di occupazione. Magari manca questo. Il bollettino giornaliero del Covid è come Strada in diretta di Radio 24. Non ce ne frega un cazzo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. In America gli scambisti votano per lo più repubblicano e hanno idee conservatrici. Il 90% è di razza bianca. Sono dottori, avvocati, insegnanti, giudici, poliziotti. Hanno ruoli importanti nella società. Scusa David, io adesso non so, questo reportage, sì, di National Geographic di qualche anno fa ti dà ragione, sì, su questa roba qua. Beh certo, è uno studio che avevo già effettuato con il mio gruppo di lavoro e che in questi 10 anni ho consolidato. È uno studio che ho passato io a National Geographic e che dimostra come appunto i conservatori, quelli che oggi diremmo votano i partiti sovranisti, la destra, le destre, sì, le destre italiane, sono scambisti, sono prevalentemente scambisti e si fanno dare i calci sui coglioni, che come racconta però anche la nostra trasmissione quotidianamente. Cioè, quelli, dici, fanno... quelli gli, sì, scambisti, ma no, ragazzi, questa qua è una cosa americana, preciso, non c'entra nulla. Cioè, gli scambisti, quelli che si fanno dare i calci nei coglioni, quelli che vogliono provare la sottomissione, cioè, la maggior parte sono di razza bianca, tu dici, di razza bianca, bianchi e cristiani, dici, bianchi e cristiani, dunque sovranisti, anche, e dunque appartengono all'area, diciamo, di destra più o meno. Fattuale, direi fattuale. Ragazzi, è una cazzata pazzesca. Lo scambismo, sì, lo scambismo, Giuseppe, è tipicamente di sinistra, come hanno dimostrato i due scambisti, la coppia scambista, anzi l'uno ha chiamato lui Sardo dell'altro giorno, un gente di estrema sinistra che vive lo scambismo perché è mescolanza, è unione di diversi corpi, dai. Vale lo stesso ragionamento del sindaco di Padova: se non ci fossero fascisti, trans, scambisti e puttane, non ci sarebbe neanche la zanzara. Questo anche è vero. Cioè, il ragionamento del sindaco di Padova è talmente ridicolo che uno potrebbe dire che senza Vaticano non ci sarebbe, che ne so, quelli che sono a favore dell'aborto. Si può dire tutto, no? Che cazzo vuol dire non ci sono i crimini? Non ci sono. Se non ci fossero i crimini. Per fare posti di lavoro. Dai, su. Ma roba da matti. Però è fattuale, La polizia non esisterebbe. No, se non ci fossero i crimini, su questo non c'è dubbio. Però appartiene al mondo del surreale. Cioè, che cazzo vuol dire? Cioè, senza i crimini, niente polizia. Noi vi mostreremo immagini, inchieste, dati, documenti e ne parleremo con i nostri ospiti. Ci sarà Vittorio Feltri, Nicola Porro, Paolo Del Debbio, Luigi Di Maio, Iva Zanicchi. A proposito. Oara Berselli. A proposito, non possiamo tacere di quel clandestino, non doveva stare in Italia. Senti Giordana come va l'attacco, senti. Però non possiamo neanche tacere che la persona che l'ha accoltellato è un tunisino irregolare, clandestino. Certo. Che non doveva essere qua, che aveva più decreti di espulsione, che aveva dei precedenti, che non doveva stare in Italia. Noi stasera ne parleremo, interi quartieri sfuggiti al nostro controllo. La Svezia, pensa alla Svezia. Non possiamo tacere che c'è un problema di cui nessuno parla, che nessuno fa vedere, di controllo del nostro territorio, di interi quartieri, intere zone che sono sfuggite al nostro controllo. Noi stasera ve ne faremo vedere diverse, con scene quasi surreali, incredibili. Interi quartieri sfuggiti al nostro c'è il suo studio, pure il suo studio a Cologno televisivo. Monfese, a Cologno Monfese c'è un pezzo di Cologno che è sfuggito al controllo della logica. E dove si esibisce Mario Giordano? Esattamente. Allora, ragazzi, al Grande Fratello VIP, state zitti un attimo, al Grande Fratello VIP. E c'è una esaltazione del signor Mussolini da parte di Fausto Leali. Di Fausto Leali. Strano, Mussolini ha fatto molto. Hitler. Senti. Ha fatto delle cose di una cosa per l'umanità, le pensioni, le cose. È andato poi con Hitler. Hitler, nella storia, Hitler era un fan di Mussolini. Questa è novità, questa è una grossa novità stasera. Allora, le lezioni di storia di Fausto Leali. Ha fatto molto Mussolini, credo abbia detto addirittura per l'umanità a un certo punto, per l'umanità. Poi e Hitler era pure suo fan, che non è indicativo in particolare, cioè non è che se Hitler storicamente è vero. Però se Hitler è fan di Mussolini non è che dici no, un mio fan è, che ne so, Einstein. No, il signor Hitler era fan di Mussolini. Però rifletti Cruciani, molti fan di Mussolini sono anche fan tuoi. Questo ma è fattuale. No, ma non lo so, può darsi. Abbastanza. Ma non credo. Sono fan della libertà che c'è qui, del fatto che loro possono dire tranquillamente quello che in altri posti non potrebbero dire. Questo uno che è fascista, come cazzo fa a essere fan della libertà? È una contraddizione. Sì, apparentemente è una contraddizione. La realtà è che loro sono fascisti a parole, poi in realtà non sono fascisti manco per niente, sono fascisti così per modo di dire. Come amano la libertà, amano il fatto di poter dire di essere fascisti, ma non lo sono dentro, cioè non vorrebbero il duce. Così non lo sono dentro. Non vorrebbero la dittatura, tirare sotto con la macchina chi commette dei reati, semplicemente questo vorrebbero. Non lo so chi lo vuole fare, ma voglio farvi sentire una cazzata della Capua, della signora Capua. No, è tornata anche la Capua, grande scienziata. Ma che cazzo, a parte una veterinaria innanzitutto, esatto. Veterinaria sotto. Io l'ho conosciuta con l'influenza dei polli, feci la prima ansa su Ilaria Capua, la scrissi io che parlava dell'influenza dei polli. Gottardo allo lavorava all'Ansa, allo profilattico di Padova. Gottardo 10 anni Gottardo lavorava all'Ansa, perché io, a differenza tua, ho fatto il giornalista sul serio, a differenza tua tua che al massimo le alze le leggi. Ti hanno cacciato a pedate, certo, nel culo, no, e sei, no, finito, no, in mi un sono albergo dimesso io. In un mi letto sono dimesso d'albergo di lusso, a fare di lusso, marchette di lusso, ad Avalo Terme e massaggi, sei e massaggi dall'Ansa a fare marchette in un albergo. Ho anche il personal trainer, che ha una gran figa. Ma quale personal trainer? È vero, che è vero, ho il personal trainer, devo dimagrire. Non dire il nome, non fai dire body il nome shaming. Non dire il nome del personal trainer, perché lo sputtani altrimenti. Martina, fighissima. La cavola. Paradossalmente è diventato più pericoloso a questo punto il pranzo della domenica con la famiglia allargata che la visita al supermercato. Io direi di sì, perché adesso vi è in atto una dinamica completamente diversa, nel senso che quando si va al supermercato si va opportunamente sanificati. Pure prima si andava coperti. È da marzo che uno va al ristorante, sia al ristorante, al supermercato con le mascherine. Da marzo non è cambiata nessuna dinamica. È da marzo che quando andiamo al supermercato dentro si deve andare con le, ti fanno pulire le mani, devi mettere i guanti e devi mettere la mascherina. Al supermercato mi sembra che le regole non siano cambiate, a meno risulta qui in Lombardia che siano cambiate. Cazzo, cosa vuol dire che la se questa vorrebbe vietare in teoria i pranzi domenicale di famiglie, per le pranzo, certo, domenicale. Ma dai, ma penso che roba, cautela, dice che ci vuole un po' di cautela, che ci vuole la cautela, famiglia, ci vuole lei pagata da Floris per dirci che ci vuole, no, cautela, no, questo non lo so adesso, sì, sarà pagata normalmente, è giusto così, non credo, non lo so, diffamazioni, che fai diffamazioni continue, continue diffamazioni, io ho detto che è un crimine, ho detto giustamente ci vuole la capua per dir, no, che per dirci che ci vuole cautela, in più pagata da Floris, Antonio da Catania. Ma va bene essere pagati, però ragazzi, piuttosto che da Antonio. Assad, meglio ciao da Floris. Dimmi, che cazzo, fatemi parlare. Dimmi. Ciao Beppe, ce l'ho con quel fenomeno di Parenzo, il professor Ronna. Grazie per aver chiamato, grazie. Prego, Beppe. Prego. Allora, grazie. Parenzo, per te c'è sempre il fascismo dappertutto. Ora, per quello per quel immigrato che ammazza, il clandestino, irregolare, che ha ammazzato quel prete lì, secondo te non bisognava dire che era irregolare? Gottardo che ti andava dietro dicendo, beh, non è che il prete è meno morto. Dirlo. Non cambia la storia. Ma come è inutile dirlo? Non cambia la storia, è un criminale, ma che vuol un criminale, dire punto. Ma non che cambia la storia. Perché qui non si parla, perché poi tu lo ricolleghi al razzismo. Ma è un fatto, tu vuoi negare i fatti. Quello è un irregolare, doveva essere già espulso, non è stato espulso, ha ammazzato un prete con una coltellata e non vuoi dire che era irregolare. Ma dico che sei matto, no, sei. Secondo dire, lui fatto questo che alimenta il fascismo. No, ma non l'ho mai detto nulla di tutto. Non l'ho mai detto. Sei non una detto vergogna ambulante. Ho detto che dare l'etnia di chi commette reati è una stupidaggine. Ma che c'entra? Quello là è un tunisino irregolare, irregolare senza fissa dimora. Punto. Lo dobbiamo dire o non lo dobbiamo dire? Che se fosse ma stato certo, espulso non avrebbe ammazzato un prete con una coltellata. Lo possiamo dire senza essere. Anche Gottardo è senza fissa dimora, che vive in un albergo da settimane. Pure Gottardo, eppure non gli dici nulla. Gottardo senza fissa dimora. Gottardo senza fissa dimora. La Zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono che la Zanzara da fa l'80024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Adino Olfi, brutta testa di cazzo, adesso sembra addirittura, dice addirittura che non c'è stato lo speronamento. Ma tutto questo livore nei confronti degli omosessuali, vogliamo dargli una spiegazione? Diciamolo, ti piace il cazzo, solo che non ti accetti, non riesci a accettarti, ma ti piace il cazzo perché c'hai questa fissa contro i culattoni, ma vivi la tua vita, come hai accettato che pesi 180 kg e sei un ciccione di merda? Accetta anche il fatto che ti piace il cazzo, brutta testa di cazzo, e smetti di dare addosso continuo, continuo, c'è questa mania figa, fai vomitare, uomo di merda. Ragazzi, vi stupirà, ma oggi sono venuto a a sapere una cosa proveniente dalla Francia, un dibattito che c'è in Francia. Pensate, caro Parenzo, non ho pensato solo a prostitute, squirting e quant'altro, e alla, no, alla composizione finale del mio grande libro sulla, sul sesso in Italia. Non è quello il punto. Navi di Teseo editore. Sì, ma lascia perdere adesso, no, non c'è bisogno. Ho fatto io la marchetta a te, fatto la marchetta a posto mio. Siamo ai livelli che faccio le marchette agli altri. Però lascia perdere. Allora, la cosa incredibile 18 un'altra. Euro credo in libreria. Ma non lo so, ma non stai zitto. Che danneggi, cioè, danneggi, danneggi quello che accadrà. Allora, allora, la cosa incredibile è che c'è un dibattito in Francia sui certificati di virginità. Ah, bene. Cioè, esistono ancora in Francia alcuni medici ostetrici, ginecologi, non so chi altro, proptologi anche, non lo so, farlo. Danno a chi li richiede dei certificati di virginità. Cioè, scusi, tu vai a parte il controllo dell'imene, spesso sono ovviamente degli islamici, delle donne islamiche, del culo, che magari o del culo, chi lo sa. No, no, no, no, no, certificato di virginità, solo non è davanti. Che ma sì, davanti, solo davanti. Ragazzi, adesso, okay, non diciamo cazzate. Questo certificato di virginità viene dato ancora dai medici francesi. Ovviamente lo Stato lo vuole abolire, rendendo non responsabili penalmente i medici che lo danno, ma ci sono un gruppo di persone che dicono no, attenzione, non li eliminate. Cioè, persone serie, non dei pazzi. Delle persone che dicono no, non li eliminate perché in questo modo aiutiamo le donne che magari sono minacciate da, dai mariti, eccetera, eccetera. Rilasciando questo certificato, magari falso, loro dicono: beh, sono vergine, allora stai tranquillo, mi puoi sposare, puoi stare con me. Cioè, tu capisci la follia? Esistono ancora dei certificati di verginità. Incredibile. Io, magari pure in Italia qualcuno li fa. Magari c'è qualche medico in Italia che rilascia un certificato di verginità per qualche pazzo islamico che vuole che la sua donna sia vergine. Sì, ti ricordi che c'era la tradizione di esporre le lenzuola dopo la prima notte nei paesi del sud, dubbio, per esempio? Assolutamente, infatti sto dicendo adesso, magari c'è qualcuno in Italia che ti firma una roba dicendo questa qua è vergine perché le ho controllato la figa, le ho controllato l'imene, cioè, ma magari c'è qua anche in Italia, c'è in Francia, anche se ovviamente sono pochi casi, ma in Francia c'è qualcuno che ancora rilascia dei certificati di verginità. C'è una cosa, ma è tutto il giorno che ci penso, un certificato di verginità. Ma come cazzo si fa a rilasciare un certificato di verginità? Cioè, tu tocchi la figa e l'imene e puoi renderti conto se uno è vergine o no? Cioè, boh. Sì, beh, quello sì, quello certamente. Sì, no, sicuramente, ma come si fa a rilasciarli? Pazzesco. Cioè, a rilasciare un certificato in cui dice questa qua è vergine, ma devi essere pazzo per rilasciare un certificato. Cioè, o lo se fai dopo rapporto ti domanda 50 euro, io propenderei che sia falso il certificato di verginità, eh? No, questo grazie al cazzo, ma questo che c'entra, vabbè. Però scusa. Va bene, ragazzi, Tommaso da Ancona, vai. Tommaso da Ancona. Sani, ciao. Dimmi. Ciao, senti, io volevo fare una considerazione sociologica, politica e giuridica. Sì, anche sì. Basta una vabbè, cosa semplice, non complessa. Faccio veloce. Ma perché se uno va in Spagna, in Olanda, vai nelle case chiuse, tranquillo, e in Italia devi andare su internet, e cos'è questa finta moralità che Tommaso, questa però è una vecchia discussione. Fammi finire che stai dicendo una cosa di cui parliamo da anni, abbastanza ovvia. In Italia non ci sono le case chiuse, lo sappiamo. È nell'agenda politica, è nell'agenda politica in Veneto con il conte Dolfini. Va bene perché dice che la gente deve andare in Austria, ma cavolo, perché dobbiamo andare in Spagna o in Olanda? Ma facciamole pure qua, vedete i numeri sugli annunci. Numero visualizzazioni 200. Tommaso, io non ho capito che cosa vuoi, non ho capito. E questo volevo dire. Che, ma che cosa? Cosa volevi dire? Non ho capito bene. Volevo dire che in Italia, io sono d'accordo con la proposta del conte. Va bene, Roberto Garenzi, abbiamo capito. Roberto, dimmi. Proseliti. Dimmi, Roberto, pronto, dimmi. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, dimmi. Allora, come ieri ho sentito per la zanzara del partito di Veneto, il conte Dolfin che vuole legalizzare la prostituzione, mi si è accesa una lampadina. Nel senso, io sono veneziano, ok? Adesso magari forse Parenzo e Gottardo lo sanno meglio. Cosa? Dietro a Sant'Erasmo, è un'isola veneziana, sì, certo. Quando c'era una volta c'era il canale del Presso. Sì. Vabbè, praticamente allora dove andavano le prostitute in Barena, i papponi portavano le prostitute. Vabbè, ma lo sappiamo che esisteva. Nella Serenissima Repubblica era previsto, certo. Se sì, il conte certo. Dolfin viene eletto, ma quale conte? Io voglio aprire col conte Dolfin. Voglio aprire il canale del Presso in Barena. Bene, lo voti a Venezia, lo voti. Così c'è qualche possibilità di riaprire i bordelli, di riaprire il candidato della zanzara. È il candidato della zanzara. Fammi capire ogni giorno sotto casa sua. Fammi capire, questo mio amico corregionale. questo veneziano, cioè, non gliene frega un cazzo dell'acqua alta, del Mose. Sì, ma chi se ne frega di queste turismo, cose? Dai. Cioè, lo voti il conte Dolfini in base al fatto delle puttane. È fantastica questa cosa. Matteo da Vicenza, state zitti, Matteo da Vicenza, dai, Matteo. Dimmi, Matteo, dimmi. Ciao, ciao Cruzani, ciao a tutti. Ma chiedevo, ma è tornato a Gottardo e siamo contenti tutti quanti. Ma perché dipende, non c'è chi è contento, c'è chi non è contento. Dipende, vabbè, come al solito, che... c'è chi mi odia e c'è chi mi ama. Normalità. Allora, assolutamente, Matteo, assolutamente. Però perché non c'è stato un chiarimento? Nel senso, perché Gottardo, chiedi scusa a Parenzo, chiedi scusa a Gottardo. Ma Matteo, ragazzi, sei un coglione? No, sì, ti spiego, Matteo, sei un coglione, perché io e Parenzo te lo dimostro, e Parenzo può confermare, siamo amici, siamo chiariti, completamente. Ciascuno si è preso le sue scuse. La prossima volta che viene a Padova probabilmente pranzeremo assieme. E con questa ti mando anche a fare il culo per avere massimo, e Parenzo pagherà il conto. Ma col cazzo. Ok. Ma col cazzo. E ciao, ciao, Matteo, ciao, perché Parenzo non vorrà pagare il conto. Cazzo. C'è un avvocato che si chiama Musso, si chiama Mussolini. Musso, no, non è Mussolini, Musso si chiama, Musso, manca Lini, vabbè. Manca Musso. La parte finale di Lini. Ma mi Musso. Giunge notizia di un grande format di Freccero, in preparazione, mi giunge notizia, però adesso poi lo sentiremo, che cosa? Poi lo sentiremo più avanti. Ho lavorato da giorni, vabbè. Dai, che sono giorni che lavoro a due programmi straordinari, sono andato alla Rai l'altro giorno. Sentiamone uno, avanti, e non mi hanno ricevuto, vergogna. Ti credo. Uno naturalmente è tratto dai dati dell'Istat, che dimostrano che in Italia muoiono all'anno 600.000 persone. Allora, beh, ho allora detto che questo è un grande casting naturale, naturalmente. L'idea è quella di individuare i malati, soprattutto terminali, naturalmente, e seguire le loro ultime ore, quelle loro e dei parenti, naturalmente, e accompagnarli fin dentro la tomba. Ma questo è stato fatto? No, non è stato fatto, naturalmente, perché ho fatto già l'accordo con una casa, con questi che fanno i funerali, una società che fa funerali. Le pompe ho proposto funebri. Le pompe funebri, dai, che sponsorizza tutto. Sono andato alla Rai e l'ho proposto, mi hanno sbattuto la porta in faccia, ho detto non si può lavorare sul dolore, ho detto 600.000 morti l'anno, naturalmente, quelli italiani sono un patrimonio inestimabile, naturalmente. Il dolore, naturalmente, immaginate quando il cadavere viene lavato, naturalmente, vestito di tutto punto dalla famiglia, il pianto che accompagna il feretro fino naturalmente alla fossa, la cremazione. Tutto va raccontato, è la vita, la verità. Ho capito, però non è che la Rai può fare un format sulla morte delle persone, naturalmente. Le persone muoiono, naturalmente, no? E quindi non si capisce perché raccontarle e continuare con questi talk show. Con Telese, tutti che con Telese, queste trasmissioni dove danno la parola ai politici che non funziona. Raccontiamo la morte che riguarda tutto. 600.000 persone l'anno muoiono in Italia. Dai che vanno raccontate, su, dai. Dai che funziona. Dai. Antonio da Como, dai, Antonio, dimmi. Ciao. Dimmi. Scusate se mi intrometto. Io volevo parlare del prete di Como, dato che sono di Como, quindi volevo parlare di lui. Solo una piccola premessa, piccola, per il caro Parenzo. Dato che mi chiederà sicuramente per chi hai votato, io gli anticipo dicendo che è più di 20 anni che non voto. Quindi, vabbè, Antonio, vai al sodo, dai, non ce ne frega un qualunquista. Un qualunquista. Sì, un qualunquista. Del prete voglio dire questo. Ci stupiamo ancora oggi che una parte del nostro paese insiste a pensare di avere questi extracomunitari, di mantenerli, di aiutarli, l'integrazione, eccetera, quando non sappiamo ancora che questi preti vengono vessati giornalmente da queste persone con i 10 euro, i 20 euro, datemi 30 euro, eccetera, eccetera, e se poi, prima o poi, questi non glieli danno, prima o poi scatta la scintilla. Non sappiamo che ci sono, o lo sappiamo, che vengono persone minori in Italia che vengono pagate tra gli 80 e i 120 euro. Vabbè, cosa vuoi dire? Non ho capito. Voglio dire cosa c'è dietro a queste Caritas. quanti soldi girano, voglio sapere anche un'altra hanno cosa. Hanno magari interesse al fatto che esistono migranti irregolari, questo vuole dire l'ascoltatore. Certo, hanno magari interessi dire, concreti, cosa, poi... denaro, segui i soldi, no? Segui i soldi. Dire solo una cosa, perché solo... lo utilizzate solo con altre persone, segui i soldi? Magari lo si potrebbe utilizzare anche per i cosiddetti buonisti, segui i soldi, segui il percorso. Il problema è uno, però. Ma avete delle informazioni che la Caritas è coinvolta in qualche scandalo? A me non risulta. No, se avete queste notizie, Parenzo, datele. Caro Parenzo, io non ho informazioni, voglio solo dire quello. Non dica che... stupidaggini. No, posso dire quello? Posso dire? Lei poi considera le mie stupidate, non è un problema. Ma certo. Ognuno è libero di dirle. Ha parlato del di business della Caritas. Qual è il business? Io dove sono parlando... i milioni di euro? Mi spieghi qual è il motivo per cui il prete che l'altro giorno ho sentito, dato che mi seguo da anni, che inveiva contro Salvini, e io non sono simpatizzante né di uno né dell'altro, ma voglio neanche dire, io neanche del prete, questo figuriamoci. Prete che inveiva contro male. Salvini augurandogli diceva, di tutto diceva e di che più. Bisognava dargli due calci nei coglioni, bravo, se non sbaglio, no? Bravo, male, l'ho male. Sentito. Allora, perché un prete arriva a questi livelli se non ci sono dietro i famosi soldi? Vabbè, ma cosa c'entra il prete? Il prete non ha accolto nessuno, non c'entra niente, esatto. Fermo là. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Tu di marijuana non hai mai capito un cazzo, Gottardo. La marijuana legale servirebbe alla riduzione del danno, perché sarebbe roba più sana, più pura, sana, non più sana, sana, pura, limpida, buona, naturale. Acid drug, perché chi si fa i droghe pesanti con la cannabis naturale coltivata da sé, autoprodotta, comunque anche comprata, ma buona, sana, pulita, potrebbe cercare di uscire dalle droghe con l'aiutino. E sarebbe anche una manna ai malati che non sono supportati dal sistema nazionale sanitario, che tiene fuori un sacco di patologie e fa pagare la cannabis un sacco di soldi. Sei un coglione. No, ma allora, scusatemi, il coglione è costui. Ha ragione lui, ha ragione lui, ha ragione perfettamente. Tu come al solito gli lisci il pelo sull'internet e poi pubblicamente dici no, con lo contesti sulla droga. Io non rispondo più al demone scimmia che mi chiama alle ore più incredibili. Perché da quando ha iniziato a drogarsi ha perso il mio rispetto. Da quando perché è uno che mi aveva promesso, aveva promesso che si teneva pulito, aveva smesso per un periodo, sto coglione ha, come si capisce anche da questo audio, ha iniziato a rifarsi di qualsiasi cosa, e quindi io non voglio più parlare con uno che tradisce. È un'accusa, di una gravità assoluta. Stai dicendo che ha ricominciato a drogarsi il demone scimmia, ha ricominciato a drogarsi di brutto. Secondo me non ha mai smesso. Non ha mai smesso purtroppo. No, aveva smesso, era stato pulito per un periodo, sono sicuro di questo. Allora, dove andiamo? Fermi tutti. Lores, c'è Lores. No, fermi tutti. Zitto. Parenzo, devi stare zitto adesso. Una dei miei uno dei miei candidati, diciamo così, colonna, uno dei miei colonna candidati vicentina. Per il partito dei veneti a favore Mamma della legalizzazione mia. Della prostituzione, Mamma Lores mia. Da Vicenza. Applausi, molto applausi, bene, applausi, bene. Applausi, applausi. Parenzo, stai zitto. Lores, buonasera. Dimmi tutto. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. Stai zitto un attimo, dimmi Lores. No, dimmi. Metto giù, Dimmi, vai, che vuoi dire? Allora, io sono felicissima perché dopo 20 anni di lavoro di un mondo autonomista, finalmente si è unito l'anno scorso al Palageox e c'era il grande Gottardo che presentava Grosso. Gli attori, vero Gottardo? Vabbè, ragazzi, però, ragazzi, fermi tutti. Lores, a noi non ce ne frega un cazzo di queste cose che volta. Sapete solo voi. Io voglio capire una cosa: finalmente sei candidata per un partito che vuol. Tu sei addirittura indipendentista, diciamo la verità, Lores. Sì, sei indipendentista. è un piccolo passo verso l'indipendenza, verso il paradiso. Sì, sì. Tu, il paradiso, tu non riconosci sostanzialmente, diciamo la verità, Lores, non riconosci lo Stato italiano, cioè questo è il punto fondamentale. Ma scusa un attimo, lasciami dire solo un minuto, lasciami un minuto. Ma ho capito, Lores, tanto no, si no, sa. No, tu mi devi lasciare, non lo riconosco, no, ma tu devi lasciarmi un minuto, dimmi, per cortesia. Dimmi. E dopo andiamo avanti fino alla fine della trasmissione con quello che vuoi tu. Dimmi. Con il mondo della prostituzione, che anche quello mi interessa molto. Allora, sì, per i diritti delle prostitute e anche per tutto il resto. Allora, finalmente questo partito riuscirà a tenere in Veneto le risorse dei veneti. Allora, le risorse dei veneti. Vabbè, però non ce ne frega niente dei discorsi seri a noi, Lores. Parliamo di cose importanti. Lores da Vicenza, quella del Napa, a me candidata per la Zanzara. Questa è la verità, Parenzo, questa è la verità. Diciamo. Questo è lo scandalo assoluto, infatti. Perché lo scandalo? Perché? Questa il messaggio devastante che dai oltre Casaleggio, perché sei oltre l'uno vale uno. È chiuso, è stata una cosa pazzesca. Candidato, un politico si deve confermare, si deve confrontare un politico. Sì. Vengono i brividi a considerarla un politico, a me questa qua. Non richiamatela, che mi sta sui coglioni. Siete oltre Casaleggio ormai. Siete oltre Casaleggio. Ma perché tu vuoi vietare a Lores di essere candidata cruciniana nel partito dei veneti in provincia di Vicenza? Una che voleva usare il Napa, la stessa provincia. Ma scusami un attimo. Nella stessa provincia è candidato anche Gio Formaggio. Appunto. Allora, tu preferiresti votare Lores o Gio Formaggio? Ma io mi sparo, se ci fosse in bocca, piuttosto sulla pubblica piazza. Tieni zitto quel coglione lì, altrimenti io rimetto giù. Allora, devi andare all'attacco. Tu sei una a favore dell'indipendenza del Veneto, questo diciamolo forte. Hai parlato sempre di Terroni, adesso non è che puoi fare la moderata qui, puoi fare il politico moderato. No, non voglio moderato. Fare la moderata, devo dire perché è importantissimo che questo partito riesca. Ma non lo so, va bene, chi se ne frega questo qua, va no, bene. Io, lasciami dire una cosa. Allora, ragazzi, io se fossi a Vicenza voterei per Lores, però cara Lores, io voglio la vera Lores, non quella non che fa trick e track, trick e track. Non lo so, sarei incerto tra Gio Formaggio e Lores. Parenzo, tu che dici? Se dovessi scegliere tra Lores e Gio Formaggio. Cioè, tu mandi nelle istituzioni a guadagnare 12.000 euro al mese questi personaggi, questi razzisti incredibili. Hai una responsabilità enorme. Perché Lores è razzista, per te Lores non è razzista Lores. Ma è oltre il razzismo, è proprio un'altra roba. Che è una mezza matta, è una squinta. Io gli farei il test perché è una squinternata. Sì, va bene, non si può fare l'altra soluzione che avete per Ma che cosa l'unica? Faresti? Cosa allora, soluzione? Dico, aspetta un attimo. Ma Parenzo, cosa faresti? Non ho capito. Ma è una squinternata, allora, farei il test, sì, il TSO, certo. Eccola qua, eccola. Il candidato educato. Cretino, non ti avevo ecco il candidato. Cagato, il candidato. Giusto. Hai pescato il Jolly. Hai pescato il Jolly perché questi due criminali ti hanno messo. Richiamala. Quindi potrebbe rappresentare Lores il partito di coloro che odiano Parenzo. Sì, che secondo me in Veneto potrebbe anche essere maggioranza. Sì, va al ballottaggio, attenzione. Sicuro. Quindi l'appello. No, non c'è il ballottaggio alle regionali. L'appello che si potrebbe fare è. Aspetta, se mi sta sui coglioni, allora, Parenzo, votate Lores. Se non tieni zitto quel cane rognoso, io metto giù. Ma non ti rispondo più. Cane rognoso. Aspetta un attimo, Lores. Tu faresti un TSO alla Lores, Parenzo? Faresti un TSO? Ma immediatamente, strano che non sia stato fatto prima, ma per ma carità. No, ma perché, però... poveretta? Ma perché? No, che ma c'entra dai. TSO? Di qualcosa, Lores. Parenzo, vuole che ti si faccia il TSO lì nel posto dove ragazzi, abiti? È una spostata, su questo non c'è ombra di dubbio. Però va benissimo, e viva la democrazia. Ma quando chiama la Zanzara, è una persona educata e per bene la spostata invece. Ma chi l'ha spostata? È Cruciani che ragazzi, ha dei brutti voleva sparare dalla finestra di casa sua con la figlia questa vabbè, a ricordare se tutto. Se te passi Timona te sparo subito. Sentila, poco ma sentila, sicuro sentila, se te spari coglion te voto coglion, sparo sentila. Subito cioè, volete questo mandare questo essere inutile nelle istituzioni venete punto di domanda consiglio regionale allora venete sì, votate Chiave Gatto. Votate Chiave Gatto, no, che scusami, è un patriota enorme. La campagna elettorale. Allora, scusami un attimo, ma patriota che è Veneto. Non ho capito, il Veneto non viene prima di Roma, non viene prima del Lazio, non viene prima della Lombardia. Perché devi dire queste cose, Lores? Quando c'è di fronte un carabiniere, che effetto ti fa un carabiniere? È rappresentante dello Stato italiano, dovresti omaggiare i carabinieri, cara Lores. Invece ma, tu... ma chi? Ma anche se passa un carabiniere tedesco, lo omaggio io, lo rispetto. Beh, tutti sarà, io. Sarà diverso perché tra il carabiniere rognoso Parenzo, io rispetto tutti. Basta che non passa il cane rognoso Parenzo, dopo io rispetto tutti. Tu Parenzo sei un cane rognoso. Stai attento come che ti fai parlare. Tu, magari... se, guarda, saresti capace, sono sicuro che non prenderai neanche un voto, perché sei talmente ebete che non riuscirai a votarti nemmeno tu. Quindi prenderai zero voti, perché neppure tu ti voterai da quanto sei ebete. No. Questo accadrà. Ragazzi, io voto Chiave Gatto. Tutti quelli, appunto, tutti... vedi, è un ebete. Beh, è l'unica che non si vota. È l'unica che non si vota. È doppia. Scusami, no, Lores, ma tu l'Italia la chiuderesti dove? Cioè, dov'è che la fermeresti l'Italia? Cioè, dov'è che chiuderesti? Ah, l'Italia sta dov'è? Sì, non boh, devono certo. No, ma anche per te Napoli non è Italia. Per te Napoli non è Italia, amica mia. Su, diciamo la verità, diciamola tutta. L'hai detto no, mille volte. Aspetta un attimo, a me dell'Italia non Napoli te ne frega un cazzo. Ma proprio niente. Cioè, l'Italia come? Deve andare fuori dal Veneto. Basta, morta. L'Italia mi fuori dal Veneto. Cosa sì, vuol dire l'Italia fuori dal Veneto? Sì, cosa rognoso, vuol dire l'Italia sì. fuori dal Veneto? Analfabeta funzionale. Sei un analfabeta funzionale. E la colpa di questi due è enorme. Io ce l'ho più con loro che non con te, che sei una povera ma stupida. Ma non devi avercela con me, stronzo. No, con loro ce l'ho. Io ce l'ho nessuno. Con Mangiafuoco Cruciani e con Mangiafuoco Veneti. Gottardo. Con questa Veneti. Gente qui ce l'ho io. Lucignolo. Lucignolo, esatto, sì, Lucignolo. Però ragazzi, esatto, la candidatura sì, di Lores esatto. che bisogna votare assolutamente. Allora perché se entrasse, se sì, ci fosse un miracolo, entrasse al Consiglio regionale. Caro Parenzo, facciamo una scommessa. Facciamo una scommessa, so che è quasi impossibile. Se entra 1000 euro che non entra. No, di più, fa troppo poco. 1000 euro. Che no, non ma, io non ma non esiste proprio, allora, io facciamo, non entrerò mai, ma io mica ci vado, aspetta, in consiglio se, regionale. Se la non sono mica il deficiente di Parenzo che pensa di entrare in consiglio, sei scemo, ma io voto Chiave Gatto. Va bene, d'accordo, vabbè, abbiamo vabbè, capito, però vabbè. Voglio capire una cosa, se la Lores dovesse entrare ti fa inchiappettare da uno, da un nero che ha 20 centimetri di pisello. Ma cosa c'è da stessi commessi? Posso dire questa cosa qua? Cosa me ne frega? Se la Lores prende più di 100 voti con 20 centimetri di cazzo, dunque è la sua passione. Fine la signora, la candidata, guarda com'è raffinata la candidata. Ma lui li adora, eh? Sentitela la candidata, ah, no? Quindi è sessualmente ambiguo. Diciamo che tutti i comunisti li adorano, cosa vuoi cioè che tu sia? Dici Lores che Parenzo Lores. Le chiappe chiacchierate. Avete messo in lista questo rudere umano qua, tu, vi rendete conto? Senti, vi non rendete sai conto? Neanche cosa dire, non sai neanche cosa dire. Non so cosa dire, purtroppo. Davide, se fai un rudere, e io sono più scema perché andare sì, nel campo ecco, dei sicuro, ebeti, sicuro, no? Allora, fermi tutti. Tu, aspetta, Lores, fermala. Tu hai armi più potenti delle mie perché come te non ce ne sono. Fermala. Altre. Allora, se prende più di 100 voti, secondo me Parenzo dovrebbe farsi inchiappettare ma da un blocco. Ma sono scommesse inutili. Se prende più di 100 voti, ti fa inchiappettare da un blocco. Ma non mi faccio fare da nessuno, non mi interessa niente. Ma che si fa già inchiappettare lui dei Black, che si fa già inchiappettare dal cervello come tutti già i sinistri gratis. Sono sì, tutti sinistri, inchiappettati sì. dai Black i sinistri oddio, cosa ha messo nel suo curriculum per presentare la sua candidatura? Cosa ha messo? Vuole sparare da casa sua col fucile? Cosa ha messo nel curriculum ma vitae? Quanto è deficiente sei questo caro cosa che ha messo? Qua, cosa che ha messo? Cosa che ha messo nel tuo curriculum? Via. Cosa hai scritto? Voglio lì cosa hai scritto? Napalm ha scritto. Ciao, potuto scrivere ciao, odio ciao, Parenzo. Ciao, ciao. Allora, Anna da Brescia, poi chiamiamo la donna Zan per restare in Veneto. Oggi ha detto che investirebbe. Okay. Investirebbe. Anna da Brescia. Una galleria di moderati, vero? Ciao ragazzi. Dimmi. Io ho un'idea su come utilizzare i certificati di verginità. Sì, non cioè? Solo per le donne e gli uomini islamici, donne soprattutto islamiche intendo, ma per le donne e gli uomini in Italia. Cioè, sarebbe bello per chi volesse eventualmente vendere la propria verginità. Certificare la propria verginità e poi magari entrare a far parte di un archivio e poi volendo chi vuole la vende. Così. Sì, ma ho capito, Anna, il problema fondamentale è che non è possibile certificare. Cioè, come si fa a un medico che scrive questa qua è vergine? Sì, c'è cioè fare una specie di database delle vergini, dici, una specie esatto, di database delle vergini, delle vergini. Sì, ma ormai la vergine, l'età della verginità si è talmente abbassata che si tratterebbe, insomma, come dire, no, di un'operazione. Beh, diciamo che io sono un caso eccezionale. In che senso, cioè? Scusa? Perché io sono, ho 30 anni e sono vergine. Ma non dire cazzate, dai. Credo, ma non credete, ma non credete. Ma non dire come si esaltano subito. Ma non mi sto esaltando perché non è vero, perché non è vero. Esaltati pure, è la pura verità. Ma perché in ambo i lati lei è vergine? Ma sì, in ambo i lati, certo. Sì, immagino di sì. Senta, ma lei si sottoporrebbe ad una visita qui ad Abano Terme? Esatto. Dipende dal fine che c'è. Vuoi fare la zanzara che lei è vergine? No, se il fine è certificarlo per poi eventualmente vendere le mie verginità. No, aspetta. No, sei a Brescia. No, allora, siccome voglio che tu, cioè non è che voglio le cazzate in diretta. Mandamela qua. No, ma che te la mando? Questa sta a Brescia. Allora, l'ha fatto visitare. Allora, aspetta un attimo. Medico qua. Anna, tu mi devi far certificare da qualcuno. Vai dal tuo ginecologo, non so, hai 30 anni. Lo certifico io. Che sei vergine. Che sei vergine, vediamo se. No, e poi mi mandi in via privata, in via riservata, su WhatsApp nostro 393 71 71 701. Mi mandi il certificato di verginità. Se si però mi scrive il dottor Viale di Torino, noto medico radicale. Il certificato di verginità è una puttanata. Scrive il dottor Viale. In Francia lo fanno. Dia al dottor Viale che in Francia lo fanno. Ti sta ascoltando, quindi lo puoi dire. Caro Viale, in Francia ancora lo fanno. E c'è un dibattito se abolirlo o non abolirlo. Anna, tu dici di essere vergine a 30 anni, tu è impossibile ma che sia vergine. Un bidone, ma impossibile, sarà un bidone, Anna, per arrivare vergine a 30 anni. Ma perché non hai mai scopato fino adesso, fino a 30 anni? Allora, non ci sono motivi religiosi, ci sono motivi di occasione, non c'è mai stata l'occasione. Ma non dire puttanata, dai. Non credeteci, ragazzi. Ma come faccio a credere a questa stronzata? Dai, su, è impossibile, venga dai. A farsi visitare ad Abano. Ma senti l'altro, subito Abano. Che ma si che butta. Ti frega, sta a Brescia quello, perché dovrebbe venire ad Abano a farsi visitare, cazzo. Un'ora di macchina e la facciamo visitare. Scusami, Anna, come faccio a credere a questa cosa? Mi fai chiamare dal tuo medico? Fammi chiamare dal tuo... No, ok, ma il tuo numero come lo trovo? Ma non ti preoccupare, chiama io, 3... No, no, la trasparenza, 72. Dai, che funziona, il numero diretto di Cruciani, lo abbiamo segno, subito. Dammelo, 393. Allora, Cruciani, 348... No, 71701. La realtà. Ok, allora, aggiungi il numero... No, aggiungi numero Cruciani WhatsApp. Allora mi scrivi. In Francia mi scrivi, è un bluff, scrive Viale. Ma in non Francia è un bluff, cioè, è un bluff per cosa? Compiacere. Ma cosa vuol dire? Ciao Anna, scrivi. Scrivimi e mi devi dimostrare che sei vergine. Ciao. Va bene, va benissimo. Ciao. Va benissimo. Via con la donazione, vai. Pronto? Oh, signora Donazzan, sono Cruciani, come ma andiamo? Che voce meravigliosa, Cruciani. E anche Parenzo, e anche Parenzo, cara, come sta? David, che gioia! Eia, mi viene quasi da immaginare il perché. Partiamo da una cosa. Se io fossi passata da lì, vedendo quella scena del signore spacciatore che aggredisce l'anziano, lo avrei investito con partiamo la macchina. Partiamo dall'ABC, non l'anziano, ovviamente. Sì, perché sapete cosa mi ha scosso vedere le auto che sono passate, perché quel video purtroppo, cioè, dà anche questa testimonianza, no? Non solo del fatto di violenza, ma persone che passano e vanno via dritte. Allora, sull'indifferenza io non ci sto. E siccome sono una donna, dico io sì, io cosa avrei fatto io al posto loro? Chiamato la polizia, subito. L'avrei investito. Ma ho capito, però, 112. Fa 112, Elena. Ma investire una persona la puoi anche ammazzare. Beh, lui stava cercando di ammazzare l'anziano. Ma sì, d'accordo, per carità. E allora? Cioè, no, io tu dici, sono debole. Tu dici a un certo punto, vedi uno che aggredisce un anziano la polizia, e lo butti sotto con la macchina. Però ragazzi, è una tecnica, io voglio dare credito alla signora Donazzan. Ma è un assessore, non è una tecnica, è un assessore. Infatti, eccola l'anima bella di Parenzo. Io l'anima bella, l'anima molto bella. Ma non è anima bella. Ma che cosa avrebbe fatto lei? Ma sei le istituzioni, lei è l'istituzione. Fermi! No, io sarei andato lì con la macchina. Sarei andato lì con la macchina, avrei chiamato subito la polizia, avrei strombazzato e chiesto aiuto a tutti gli altri. Quello moriva preso a calci a terra. Perché Parenzo, lei deve vedere quel video. gli dà un pugno, l'anziano no, cade, ma scusi, e se... non è fermo che è caduto, gli ha dato un calcio, l'ha ma se a passa calci. Il principio che lei con la macchina lo tira sotto. Però ragazzi, la domanda che voglio fare a tutti gli ascoltatori è incredibile. La domanda che voglio fare a tutti gli ascoltatori è questa: è ovvio voi che dirà... passate con la macchina, ma vedete c'entra? Un signore tra parentesi uno spacciatore che non si può sapere però naturalmente perché lei non no, è che certo, sa prima la storia no, sta picchiando uno per terra, lo investite oppure no secondo quello che dice la signora Mazza? Tutti leoni in teoria, ma poi non succede. Io dico scusa, gli spacciatori meritano la morte secondo te, in generale gli spacciatori? Per me lo spacciatore deve meritare il carcere a vita. Carcere a vita, uno che spaccia. E se vende a dei ragazzini minori e se induce alla morte. Per te uno che spaccia marijuana non sarà mica uno che vende... Faccio la domanda a voi tre. Voi vedete che un anziano è a terra ed è preso a calci da uno, ma uno spacciatore italiano. Non lo so che sta succedendo, magari stanno litigando per cazzi loro, non lo so, non ho la minima idea, non è che metto sotto uno dei due, non è che faccio fuori uno dei due, scusami. No, il caso è piuttosto chiaro, io so con chi sto con l'anziano a terra. Ma ho capito, ma non lo so, ma magari quello c'ha 10 anni di più, quello in piedi, che ne sappiamo? Non lo sappiamo. Ma poi Elena, tu che non sei un operatore di polizia, rischi di investire l'anziano a terra perché non sei preparata a fare un intervento del genere. Magari uno con la macchina. Film con la di Beverly Hills Cop. Però intervengo. Io l'omertà. Rambo. Quando c'era lui queste scene non si vedevano. Questo mi pare abbastanza chiaro. Queste scene quando c'era lui non si vedevano. Vabbè, lui, Matteotti, Sua eccellenza. Dico solo questo. Sua eccellenza. Andiamo su un motore di ricerca e digitiamo chi cita di più lui, venite fuori voi due. Può essere. Però sempre con lo spunto di qualcuno. Però anche all'interno di Fratelli d'Italia è piuttosto citato Sua Eccellenza. Questo però in dirlo. Questo momento questo io sto dirlo. Parlando di un anziano a terra. Sì, quello è un altro discorso. Fatto, però tu, però... E io avrei fatto quello che ho detto. Vabbè, infatti questo non c'è dubbio. Vabbè. Io posso dire una cosa. In questo momento c'è anche un signore che si chiama Fausto Leali che ha detto che il Duce ha fatto delle cose buone all'interno del Grande Fratello. Cioè, una cosa ormai sulla bocca di tutti. L'altro giorno l'assessore, amico tuo, signor Giovine a Vicenza, tu hai detto anche che ha ragione. Anche la nonna di Fedez mi pare, giusto? Una sì, volta anche la donna di Fedez. Anche la nonna di Fedez. Dunque mi sembra di capire che tu sei d'accordo con questa frase qui. In il linea. Duce ha detto, ha fatto delle cose buone. Su questo non ci piove. Ma chi al mondo non ha fatto anche delle cose buone? Vabbè, questo però adesso non la buttiamo in caciara. Si può dire un grande statista? Ma non l'ho mica detto solo io. Ricordo che lo disse pure Churchill. La polemica è partita dal fatto che un signore ha detto che il Duce ha fatto delle cose buone. Ma tu hai sottoscritto. Tu hai sottoscritto. Ma lo dicono in tantissimi. È candidato con te. Elena è candidato con te. Ma lo dicono in tantissimi. Giovine. Ticket. Ma mi vuoi dire secondo te la cosa più importante che ha fatto? Però secondo te lui ha detto le pensioni. Sì, guardate, ieri sera ero a parlare di rugby. Il CONI, cioè il Ministero dello Sport, quando venne costruito così, e l'educazione allo sport e la ginnastica. Ah, tu dici che si faceva più ginnastica, si aveva più cura del proprio. No, è stato proprio costruito in quel momento. No, vuol dire che durante il fascismo c'era una grande attenzione alla cura del corpo, diciamo questo qua sicuramente, no? Ma direi alla disciplina, alla cura del corpo, alla mente sana. C'era l'uso anche dell'olio. C'era l'uso dell'olio non per i massaggi, ma per altre funzioni. Il famoso olio di ricino. Il famoso olio di ricino. Il famoso olio di ricino che veniva usato non per i massaggi. Bensì secondo per altre me, cose l'olio di ricino. Ma si può dire che Mussolini fu un criminale o no? Ma no che non si può dire. Ma anche lei, Cruciani, no? Come fa a dire una cosa del genere? Beh, era un criminale, scusi. Cos'era? Hitler era un criminale, no? Ma Hitler era un criminale o no? Hitler era un criminale, io, giusto? Però, queste cose... Guardate, io sono veramente... Ma Hitler era un criminale, possiamo dirlo? Andiamo con più semplicità, cose più semplici. Dirlo, ma certo che possiamo dirlo. Ma non si Hitler può era un criminale e quindi anche Mussolini era un criminale. No, quindi Mussolini proprio non fu invece... una figura importantissima per la storia d'Italia. Questo lo sappiamo, importantissimo. Perché se voi dite criminale, quello spacciatore che ha picchiato l'anziano. Ma è molto peggio. Ma quello metteva in... ma è molto peggio dello spacciatore Mussolini. Bene, senta, punto. Se volete fare una puntata di storia, mi chiamate un'altra volta e io parlo di storia con usciamo voi. Dalla storia, usciamo dalla storia, andiamo sull'attualità. Andiamo sull'attualità, Elena. Mi scusi. Vi abbraccio tutti e vi auguro ogni bene. Ciao, Elena. Vabbè, salute. Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Mi stai girando la testa, vedo lampi negli occhi. Ma che roba era quella? Roba tagliata male per caso? Zanzare fa riguarda, oh oh oh. Zanzare fa riguarda, oh oh oh. Zanzare fa riguarda, oh oh oh. Zanzare fa riguarda, oh oh. Vuoi propagandare la droga? Stasera sei proprio carico, sei grandissimo. Sì, sono due settimane che sono carico. La zanzara. Wait for me, world, wait for me. Wait for me, world, wait for me. Wait for me. No, scusate, scusate, un tecnicismo importantissimo sul pompino con l'ingoio di Simona. Dovreste capire bene se questa aspira e pertanto impedisce che ti rimangano sulla fava questi aloni di seme viscidi che poi vanno via anche male, puzzano, eccetera, oppure lascia solo un po' di saliva che asciuga subito e non è un problema, ma aspira tutto il resto in maniera tale che ta, rimane tutto pulito. Chiaritelo, perché qui l'Italia è proprio in sospeso su questo. Ciao. No, per finire, scusate, ma ci sto ripensando. Rimugino sulle parole di Simona. Dovrebbe specificare se fa i pompini con l'ingoio o i pompini col risucchio, perché col risucchio siamo sicuri che non solo il piacere, perché ti senti strappare il seme da dentro. Non vado nel tecnico perché andremo troppo per le lunghe. Però col risucchio il lavoro è pulito. Con l'ingoio... Dai, chiariamolo. Fernando da Foggia, Fernando da Foggia, vai Fernando, giusti, sono dubbi legittimi che si pone questo ascoltatore, naturalmente, sono domande legittime che si pone questo ascoltatore, che tutti dipende qua... Dipende anche, dipende da che donna incontri, se hai una che tira con le guance è un ingoio, se hai una che tira con l'esofago è poi un risucchio. Vabbè, adesso questo qua è un'altra roba, è un altro discorso che va... su un altro aspetto molto molto tecnico. C'è esofageo e c'è quello di bocca. Non credo, non credo che ci sia, amico mio, certo. Non c'è questa distinzione. In qualsiasi libro, in qualsiasi letteratura del blue job si definiscono queste due grandi categorie. Mamma mia. Fernando da Foggia, vai Fernando. Grazie a Dio, vi siete ricordati. Un altro intellettuale. Un altro intellettuale, certamente, quattro lauree. Certamente. Andiamo avanti, dai, cosa volevi dire? Ecco il professore di Foggia. Il professore di Foggia. Interrompe a fare, scemo di merda. De Foggia. Ma educato questo? Perché chiamano tutti le persone educate? Ma vaffanculo a me, ma sei cornuto, aspetta, che ti devo dire che cazzo, come la penso io sulla violenza? Ecco, ma sentiamo, sì, vediamo. No, io non vorrei saperlo. Io non vorrei saperlo. Mi fai passare, mi fai parlare o no, scemo? Certo, miserabile, prego, parla, miserabile. Prego, miserabile. Se ti trovo, ti rompo le corna, cornuto. Prego. È una minaccia, scemo. Mamma mia, quanto è cretino questo. Posso prego. Parlare, cornuto? Certo che puoi, benvenuto. Che da morte, parla in italiano, cretino, che siamo in Italia. Siamo in Italia. Parla in italiano. Scusi, lei è nato prima del 1900. Quando è nato? Anzi, giro la domanda. Allora posso quando finire è nato di lei? Parlare, merda di sì, cristiano. Quando è nato lei? Ma dove è nato? Posso sapere quando è nato lei? Cosa è nato? Adesso chiudo perché ma che chiude? Le ho chiesto solo quando è nato lei. Quando è nato lei? Io sono nato 76 anni fa, scemo. Ecco, quindi non c'era la legge 194 sull'aborto. Questo spiega tutto. Dimmi, perché Fernando. Ma quella puttana di tua madre. No, ancora con la puttana della madre, che è una santa signora. È una santa signora. Così nervoso questo. Una volta, caro Fernando, dietro a mia madre della figlia di puttana, dietro a me del figlio di puttana, ovviamente con riferimento a mia madre, chiamai mia madre in diretta che si incazzò un po', dice: io non sono una puttana, ma allora però... posso finire, posso dire che cosa volevo dire? Sì, ma come è sto coglione? Ancora interrotto. Dimmi Fernando, dimmi interrotto. Allora. Dimmi. Dimmi. Se io vedessi un delinquente, sì, spacciatore, sì. non spacciatore, basta sì. che un delinquente giovane sì. che prende a calci un vecchio a terra, sì. avesse la possibilità di ucciderlo, lo ucciderei. E questo spiega tutto. Questo perfetto. Mi pare abbastanza conseguente. Un cerchio. E questo chiude il cerchio di questo imbecille. Chiude il cerchio perfettamente. Questo. Che imbecille, tua madre, questo chiude tua il cerchio. Questo chiude il cerchio di questo aborto nato prima della legge 194. Questo spiega tutto. E perché chiude pure? Che cazzo ne so. È impazzito con Padaletti. Giorgio da Monza, avanti tutta, Giorgio. No, sono io. Dimmi Giorgio, dimmi. Oh, io volevo dire solo una cosa sul questo discorso di Mussolini, bene. No? Anche questo sì, Mussolini, che è successo? Vabbè, non, guarda, Mussolini alla fine avrà sbagliato solamente una cosa. Sì, che ha sbagliato? Una, ne avrà sbagliate tante. L'unica cosa è stata entrare allearsi con Hitler per entrare in guerra, sennò venivamo sottomessi come degli asini. Però alla fine le cose... oddio, sono in onda, mi sto sentendo. Ma no, non ti devi sentire, devi chiudere la radio. Non ho capito. No, ho già chiuso la radio. Ma che cos'è dicendo, che l'unico fatto? Errore non che ha fatto capito. Mussolini è stato allearsi con Hitler. L'unico perché errore, alla fine... l'unico no, errore. Vabbè, le leggi razziali alla fine o venivamo sottomessi, o venivamo sottomessi, oppure. Giorgio, quanti anni hai Giorgio, scusami? 35. 35 anni, beh è grave la cosa, eh? Quanti cosa abbastanza anni grave. Sei messo a prendere la terza media? Una quindicina? No, io ci ho messo, non sono mai stato bocciato, quindi sono anche perito. Perché è strano? No, per le cose che dici. A sentirti ragionare, in storia dovevi essere una sega. A sentirti ragionare. No, a me piaceva per anche chi studiare vota, storia. Per chi voti alle elezioni? Per chi voti alle elezioni tu? Guarda, io ti dico la verità, nell'ultima elezione ho votato Movimento 5 Stelle, sì, perché perfetto. Pensavo che, vabbè posso spiegare, perché sì. pensavo che fosse un cambiamento. Avanti? Adesso... Chi voteresti adesso? Adesso sarei indeciso. Tra chi? Non vado a votare, No, lascialo perdere. Sì, probabilmente non vado più a votare. Sì, perché... ma tra chi, chi sono adesso i tuoi favoriti? Cioè, indeciso tra che cosa? Probabilmente... Io voterei Salvini. Salvini. Non ho altre domande. Ciao Giorgio. Ciao, vabbè, ciao, ma no, ciao, mi ciao, metti ciao. Giù così. Ciao, ciao. Certo. Teresa da Salerno, avanti tutta. Teresa, dimmi. Ciao, io volevo dire una cosa riguardo il discorso sulla virginità di prima. Mamma mia. Perché io ho 21 anni e comunque si ha proprio quest'idea che innanzitutto l'imene si debba rompere e che questo sia segno di virginità persa, ma in realtà questo è un falso mito perché l'imene è una membrana, non sempre si rompe, non sempre c'è, è di tutte e soprattutto resta lì, non è che si rompe e se ne va via da qualche altra parte, cioè se ti fanno un controllo... Non si vede niente, quindi ho già appurato che era impossibile Teresa, questo certificato. Teresa, sì. a lei a quanti anni le hanno rotto l'imene? No, rotto, ti sta dicendo che può anche non rompersi. Beh, comunque sfrangiato, ecco, spostato di lato. A quanti anni le hanno rotto? Magari è vergine. 15 anni. Però scusa, posso dirti una cosa, Teresa? All'età della figlia di Perché dici che... è la stessa idea in realtà del dottor Viale di prima, cioè lui dice che si può verificare che l'imene è intatto eppure uno può anche non essere vergine, però qui non stiamo parlando adesso di dettagli fisici. Mi faceva dirlo perché su questa cosa c'è molta disinformazione purtroppo, che comunque in che senso? Perché la virginità è più un mito che una cosa reale, cioè la prima volta basta, poi tutte le condizioni fisiche non cantano niente. La sua prima volta, no, ma ha ragione lei, esiste la prima volta, non la virginità, non vuol dire niente la virginità, ma nessuno ormai pensa che la verginità sia un valore. Ma lei si sente ancora vergine? Cosa? Non si sente ancora vergine, Teresa? Ma certo che no. No, okay, non perfetto. È vergine, ci avrà fatto. Ma dove l'ha fatto? A 21 anni scoperà regolarmente, immagino. Hai un fidanzato? Ma la prima volta dove avvenne? Dove avvenne la prima volta a 15 anni? Mamma mia. Ma non c'è un casolare, una cosa del genere. In un casolare. Però scusami Teresa, perché ci tenevi così tanto a sottolineare che la verginità è un falso mito, non esiste, che in realtà l'imene rimane, eccetera, eccetera? Perché c'è troppo c'è troppa mistificazione riguardo questa cosa, soprattutto molta di disinformazione, ma proprio anatomica. Cioè io sento anche tante dal lato opposto, tante persone che dicono che per esempio sul pene si deve rompere il filetto. No, è assolutamente no. Sbagliato, esatto. No, anzi, cazzo, farebbe malissimo. Quindi, capito, certo. Ci sono tutte queste cose che. Senta, Teresa, ma e l'altra verginità invece l'abbiamo ancora intatta? Oppure abbiamo sperimentato? Ma che te ne frega se questa qua, no, se questa qua si è fatta inchiaffettare oppure no? Ma guarda, che sei incredibile. È in onda, cioè, 21 anni. Vuole sapere se sei vergine analmente, cara Teresa? Questo è il punto, caro Gottardo. Sei vergine analmente, vedi, a 21 anni si può anche essere vergine. Ma come mai? Perché fino adesso. Ma hai tanta paura, come dice De Mari? Ecco, guarda, questo è un altro, perché questo è un pregiudizio, no, al contrario, è il mio ex che non voleva. Il suo ex e Parenzo sta zitto. Sono talmente imbarazzato per voi. Perché ha 21 anni, non ho capito. Ha 21 anni, è maggiorenne, questa ragazza. Voleva anche darlo al suo fidanzato. Ma sono allibito dall'esibizionismo di questa qua. No, scusi brava, Teresa, lei non si dà niente. Ognuno di noi dà qualcosa, che non è che dare qualche cosa. Lei aveva detto che lei si era offerta analmente al suo fidanzato e il suo fidanzato non voleva. La proposta di un tipo di non è che proposti do il mio culo, ma che no, non lo dico in questi termini. Ma perché? Io sono imbarazzato per lei. E perché poi il suo fidanzato non procedette come una locomotiva? Ma assolutamente non gli piaceva l'idea. Non gli piaceva l'idea. Ma perché lei chiama la radio per parlare di queste cose? Perché non potrebbe? Sta dicendo che per lei la verginità non è assolutamente un mito, una roba, eccetera. D'altra parte l'ha fatta a 15 anni. E non è che. Non 15 anni. A 15 anni, qual è il problema? Tanto presto, 15 anni. Sarà presto, ma può sì, capitare. Molto presto, ma io ho un mio pensiero su questa cosa del presto. Il punto è che io non mi sono mai pentita di una cosa del genere. Sì, magari della persona con cui l'ho fatto, eccetera, perché mo lo sputerei in faccia, insomma. Però sì, certo. Lo sputerebbe in faccia perché si comporta male. Sputerei in faccia. Vabbè, per cazzi loro. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, ma no, non dell'età, e secondo me fin dove non ti penti non è un problema. Cioè, se non lo vedi come un pentimento, non è. Cioè, sì, magari è presto, nel senso che ero piccola fisicamente, ma non mi interessa. Cioè, vabbè. Non mi sento in colpa, capito? Vabbè, Teresa, ciao, ti abbraccio, ciao. E anche tu, ciao. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Meno male che è tornato Gottardo, minchia mi stava sul cazzo per un sacco di cose, ma almeno è sempre intellettualmente corretto. Tu gli hai leccato il culo al brasiliano? No, ha fatto un bel gesto. Oh, ma quello un anno e mezzo fa veniva in trasmissione e diceva che andava a fare le ronde a Petralata, dove prendeva i neri e li scoppiava di botte. Stessa cosa che hanno fatto questi qui. Quindi non leccare il culo, devi attaccare il brasiliano, non lo devi pettinare. Cruciani lecchino di merda. Andiamo con Gerardo da Milano. Dai, Gerardo da Milano. Dimmi, Gerardo. Sì. Dimmi Gerardo. Giuseppe, senti un po'. Prima sentivo parlare. Sì, pronto, mi senti? Chi sentivi parlare? sentivo parlare di Mussolini, se era criminale o meno, ha fatto cose buone o no. Ma nessuno mai parla di quelli che l'hanno barbaramente massacrato. Quello è nei libri di storia, come dire, no? Nei libri di storia. È una fucilazione mentre stava scappando come un coniglio, vestito da gerarca tedesco, lasciando in Italia indifesi la moglie e i figli. Questo coniglio, questo coniglio ha lasciato con il culo per terra la moglie e i figli e lei lo difende. Davide Parenzo sei? No, è Gottardo questo rincoglionito. Dimmi Gerardo, dimmi. No, perché l'intervento di questo tizio strano è fuori luogo. È scappato con l'amante. Certo, questo è vero. Ma cosa parli? È scappato con l'amante. Ma tu sei vestito da tedesco. Ma senti, sta calmo e sta buono. Le discussioni stanno a vero, un po' più educato innanzitutto, perché la gente che ha ammazzato Mussolini barbaramente hanno fatto bene. Così finisce un dittatore, gli spari nel culo, hanno fatto benissimo. Senti, sei un volgare, un cafone e un maleducato. Mentre la sua eccellenza Mussolini, che mandava a morire gli alpini, invece era una persona educata. Non conosci il saper parlare regolarmente. Scusami, Gerardo, educatamente, Gerardo, fare una discussione. Oh, Gerardo, ma tu sei uno un po' nostalgico di Mussolini, o no? No, Giuseppe, non è questione di essere nostalgico, è questione di essere obiettivo. La storia è la storia. Mussolini ha fatto quello che ha fatto, di buono o di cattivo, però come è stato ammazzato e da chi? Nessuno ha fatto un'inchiesta per sapere chi l'ha ammazzato. Se tu oggi ammazzi una persona, fanno l'inchiesta. Perché non è stato fatto? Perché non è stata fatta? Perché se lo meritava. Ciao Gerardo, ciao. Allora ragazzi, proseguiamo chiamando Fabrizio Bracconeri, vediamo se risponde. Sentiamo se risponde. Molto incazzato per quella vicenda di Como, molto incazzato. Pronto? Fabrizio? Chi è? Chiudi sta radio, so Cruciani, chiudi sta televisione. Ciao Beppe, dimmi. Sei incazzato, mi sembra, no? Che situazione, sei incazzato come Sono incazzato come un animale, ma ho capito il problema qual è in Italia. Il problema non è il governo. Pensa te che il problema è questa massa di zozzoni di giornalisti, l'80% dei giornalisti, che scrivono cose indicibili, irripetibili e impensabili. Massa di zozzoni di giornalisti contro gli italiani, cioè chi sarebbero questi? Ti spiego, perché quelli che il signore che ammazza il signore, se così possiamo definirlo, il prete, abbiamo detto che è un psicopatico, un pazzo, senza dire che è un clandestino, uno che sta qui in Italia che doveva essere cacciato già da qualche anno, e chi li difende? I giornalisti. Chi difende? Oggi è successa un'altra cosa, se avete visto, preso a calci, nessuno dice niente, però succede che un, sempre da condannare, perché chiunque, il vero pazzo è quello che ha ammazzato la sorella col motorino che gli è andato addosso, quello è un pazzo, quello è uno psichiatrico, perché uno che sbatta la sorella per ucciderla perché va con trans o perché è fidanzata omosessualmente, viene ucciso, quello ha problemi psichiatrici, no uno che è clandestino che ammazza un prete che gli ha fatto del bene fino a ieri perché pensa che il prete non lo può mandare in Tunisia. Cioè questo è il giornalismo italiano. I giornalisti sono l'80% una massa di zozzoni. C'è un problema, secondo te, che riguarda l'immigrazione selvaggia, come dice qualcuno? Cioè, questo signore che ha ammazzato il prete, che ha ammazzato il prete, è anche ispirato da qualche cosa islamica, magari, no? No, c'è qualche cosa che riguarda anche questo. Che secondo me è la cosa fondamentale, è proprio l'islamismo. Se sei islamico non puoi entrare in uno stato come l'Italia, non puoi stare nell'Occidente. Se sei islamico io ti rimando a calci nel culo a casa tua. Beh, scusa, tu vorresti cacciare tutti gli islamici dall'Italia, tu, cioè tutti quelli che sono islamici li vorresti cacciare dall'Italia. Il tuo amico... Ho detto i neri, ho detto gli islamici. Sono anche bianchi. Ho capito. Bianchi islamici. Parenzo, per esempio, conosce un dentista qui islamico con la moglie che porta il velo, che fa il dentista qui a Milano, non facciamo i nomi. E secondo te andrebbe cacciato questo qua? Secondo te andrebbe cacciato perché la religione islamica non rispetta, già che fai portare velo a tua moglie, vuol dire che non rispetti le donne. Dunque vorresti cacciare la famiglia Kabakebji dall'Italia, tu, si chiama Kabakebji questo qua. Perché? Prova un po' a dirlo, Kabakebji, la famiglia Abdalla Kabakebji. Abdalla Kabakebji. Oh, ci siamo. Abdalla Kabakebji. Ma che me ne frega a me di questo. E allora ti chiami Cracconeri. Sì. Ti chiami te Cracconeri. Io chiamerò Cracconeri dei miei coglioni. Ti chiami come secondo tu nome. Ma la rabbia di era un arabo di Bracconeri o di Parenzo. Abdalla Kabakebji, non è difficile. Kabakebji, l'ha detto. Kabakebji, come cazzo Kabakebji. Vabbè, ho capito. Questo qua fa il dentista. Perché andrebbe cacciato? Secondo Bravo te, è islamico? No, siriano. È siriano. Allora, andrebbe cacciato chiunque. Ma è italiano. Ma è italiano. Ma uno che si chiama Cabadulla, come si chiama questo, è italiano. Kabakebji è italiano. Anche i suoi figli sono italiani. Abituati. Ma quale zozzone sei tu con la lingua italiana? È italiano, perché chi nasce in Italia figlio di genitori italiani è italiano. Abituati. Abituati. È nato in Italia da genitori italiani. Ma chi sono italiani? Ma chi? Quell'altra giornalista marocchina che l'altra sera stava con te a Gruciani. Io dico, quella gente invece di contestarla, dobbiamo mandarla in televisione per far vedere quanto sono ottusi questi che difendono aperto di mentalità. Scusa, non ho capito una cosa. Secondo te, dunque, per capire, no? Uno che si chiama Kabakebji, Abdalla Kabakebji, non può essere italiano. Ma tu dici, è impossibile. Italiano. Ma secondo te può essere italiano? Certo, tutte queste cose, ci fosse lui, non accadrebbero, diciamo la verità. Ci fosse lui, guarda, no? Ci fosse no. Lui. Sua eccellenza. Io non sono di questa idea politica. Però. Non so. Ma credo che oramai siamo arrivati a un punto di non ritorno. Purtroppo. Allora? Ci vuole sua eccellenza. No, io direi che ci vuole l'esercito. Oggi deve entrare l'esercito per pulire le strade da questi fide la mignotta che ci hanno invaso. Che vuol dire ci vuole l'esercito? Che vuol dire l'esercito? La legge marziale. La legge marziale. No, dico l'esercito deve rastrellare tutta questa gente che è sparsa per la strada, che fanno i prepotenti. La stessa arroganza che c'è il governo, ce l'hanno questi clandestini zozzoni. Okay. Che fine devono fare Bracconeri, poi questi che vengono rastrellati? Non sono delle foglie. In Tunisia tu devi sei tunisino, vai in Tunisia perché non c'è la guerra, non c'è niente. Te ne vai a fanculo in Tunisia. Per venire in Italia chiedi un regolare permesso. Senta Bracconeri, ma come ha fatto Abdalla Kabakebji? Abituati che nel nostro paese non ci saranno soltanto i Tommaso, i Francesco, gli Alberto Gottardo, ci saranno anche per fortuna gli Abdallà, gli Allullà, il Lallà, questi qui, i cinesi, gli ungheresi, i giapponesi. Ma perché questo bel capito? Discorso non lo vai a fare ad Abu Dhabi, non lo vai a fa, ama me, perché noi siamo una democrazia liberale, perché per fortuna siamo una democrazia liberale, noi siamo diversi da loro, per fortuna. Ma loro chiamano democrazia la nostra, vabbè, o la loro, mo spieghi, Fabri, perché devo vanno lasciare via da un paese dove non fanno più cazzo e qui fanno parlare. Te devo lasciare, ponno parlare, ponno parlare, parla. Ciao Fabri, ciao, mia. Ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Cruciani ha dichiarato nel podcast lì di Luis Fedez che piscia seduto, quando a noi ci ha insegnato per anni a pisciare sul lavandino. Cruciani, vergogna! Sì, non ho mai detto a qualcuno che bisogna pisciare nel lavandino. Ho detto che è un'opzione possibile. Ho detto che sarei contento, per esempio, se qualcuno andasse a casa di parenti e pisciasse nel suo lavandino. Ma io gli do un ospite magari delle sue. Delle, beh, ma lo devi sapere, magari. Come fai a saperlo? Uno ma va come nel, se, ma i miei ospiti non lo farebbero mai. Intanto, tu che ne sai? Che ti ho pisciato a Modena nel lavandino dell'albergo. Ecco, vedi. Della tua camera. Non lo sapevo, ma insomma, lo prendo adesso, chi se ne frega. Evviva. Comunque mi scrive Abdallah Cavalli. Kebji, che evidentemente vuole, ha sentito infastidito la trasmissione per essere stato citato più e più volte, allora? E oltre a annunciare causa con danni civili a Cruciani, io che scrive: l'Italia è di chi la ama e chi c'è cresciuto non può non amarla. Ma chi è? Ma per me è italianissimo Capakebji, che c'è? Io lo posso dire. Ma per me è italianissimo Capakebji. E adesso ti becchi la querela. Ma quale querela? Ti becchi la querelina. E io, io sono qui a sostenerlo. Ma figuriamoci. A testimoniare pure. Ma a testimoniare cosa? Io non ho detto un cazzo. Se la pigliasse con cosa che dice che non è italiano. Volte. Ma io l'ho citato, perché uno lo cita e deve essere querelato semplicemente per essere citato. Non ho capito. Se il tuo nome viene fatto in una trasmissione, un conto è se viene fatto a Quark il tuo nome, ma se viene fatto o a foco, bravo, o a esatto, ma se viene fatto in questo contesto qua, io per primo querelerei subito. Puoi dire a Capakebji, l'altro giorno a Milano ho incrociato, credo, il nipote il quale ha detto: ah, sono il nipote di Capakebji, possiamo fare Capakebji, come minchia si chiama, possiamo fare un selfie insieme, sei il mio mito, il nipote di Capakebji, anch'esso un po' pittato, un po' verrà colorato, querelato pure il nipote probabilmente. Cagare, vai. Allora, fammi sentire un attimo, l'ho annunciato prima, questo Musso, che è il fratello di uno che fu arrestato, fu fermato ai tempi del Covid, gli hanno fatto addirittura un TSO perché diceva che il Covid non esiste. Questo Musso, il quale è scatenato e vuole denunziare Conte, senti. Questa volta ve lo facciamo, perché finora è stato tutto un lavoro di preparazione, ma noi verremo e vi arresteremo. E quando faranno le vittime e diranno che noi siamo eversivi, siamo contro l'ordine costituzionale, siamo contro la legge, siete voi gli eversivi, siete voi che violate l'ordine costituzionale, siete voi che violate la legge, siete voi che volete entrare nelle nostre case, toglierci i nostri figli e venirci a pungere. Noi ci difendiamo, noi ristabiliamo lo stato di diritto. Ma venirci a pungere, sono andato io oggi per esempio a farmi pungere per fare questo cazzo di test di merda, sono andato a fare questo test perché purtroppo devo andare, no, così vogliono, non mi fate parlare più di questi test eccetera. Dove vai? Ma dove no, vai? Per andare a Mediaset mi fanno fare questo test, sono andato oggi a farmi fare questo test, eccolo qui, ancora una volta negativo, non l'ho pagato, ma il pungidito, io sono andato da un amico medico, potrò andare dove cazzo mi pare a fare il test o no? È l'italiano, dai, io di fame intanto. Ma bene. Cosa vuol dire? Ma bene, cosa vuol bene, dire, bene, ragazzi? Sono andato a fare sto test. Dopodiché, questo che cosa sta blaterando? Chi è che vuole strappare i figli dalle case per pungerli? Sta parlando forse del vaccino obbligatorio, che non sarà obbligatorio, vai. Purtroppo. Quindi, amici, preparatevi, perché noi li arrestiamo. Noi abbiamo già il verbale per arrestarli, abbiamo già sottoscritto i documenti, è tutto pronto. Non sarà il 5 di settembre. Il 5 di settembre comincia il popolo a prendere coscienza e consapevolezza di quello che succede, ma noi arriveremo e abbiamo già il verbale pronto di arresto. Noi lo prendiamo, ma lo arrestiamo come la legge prevede, chi è ignorante si informi. Ma chi è Pappalardo? Sì, ma sembra un nuovo Pappalardo questo qua. Un nuovo Pappalardo. Fermi tutti, forse ho trovato un uomo che è favorevole al certificato di virginità. Maurizio Ruggero, eccoci qui, Maurizio. Oh, mamma mia. Maurizio del Sacro Romano. È ovvio che sia favorevole. Ma tu sei favorevole al fatto che un uomo possa chiedere magari il certificato di virginità per la sua fidanzata o per qualcuno con cui sta insieme? No, dunque io penso che quando uno proceda poi al matrimonio, in cui c'è anche un elemento di contratto, cioè oltre che il sacramento c'è il contratto al matrimonio, no? Questo fra due battezzati. Allora, come quando uno prende una macchina nuova o una macchina usata e vuol sapere se la macchina è nuova o usata, potrà uno, se si sposa con una con cui dovrebbe stare in teoria per tutta la vita, se la signorina ha avuto altre tresche o altre relazioni o meno? Ma che cosa vuol dire? Ma magari glielo chiedi, se uno proprio ci tiene. Un altro svalvolato. Ma scusami un attimo, Ruggero. È la minima cosa che uno può dire. Tanto, oltretutto, le vostre madri, no? Che hanno avuto l'infelice idea di concepirvi, peraltro. Ma questo Questa vergine è la tua. Non ci romperesti i coglioni tutte le volte alla zanzara. Anche questo farabuttello che dice che e invece è sempre incinta. Tua madre, Ruggero, perché i tuoi fratelli sono scemi come te. È stato concepito non dico dove, no? E quindi evidentemente ecco un personaggio così ce lo ritroviamo adesso per nostra sventura. Però vuol dire persino le vostre madri, tanto più le vostre nonne, giungevano vergini all'altare. Invece sì, quello è probabile. Mia madre sicuramente è vero. Mia madre è sposata in quattro mesi di gravidanza. Perché fate i farabuttelli? Perché fate le sporcaccioni? Ma sono cambiati i tempi! Sono cambiati i tempi. E già con le vostre mani siete usciti fuori voi così. Figuriamoci con queste, allora cosa verrebbe fuori? Ruggero, innanzitutto sei in viva voce sull'auricolare, può darsi, no? Non sei con l'auricolare viva voce. Allora, posso dirti una cosa? Allora, mi stai dicendo che tu vorresti avere il certificato, dovessi mai incontrare una persona, vorresti non è avere. Non è necessario per forza averlo, però voglio dire, nel momento in cui. In Francia. Cioè non è uno scandalo, questa cosa del certificato. Lo scandalo è l'immoralità dei costumi, lo scandalo sono le baldracche, lo scandalo sono i sodomiti, lo scandalo siete voi che sostenete tutte queste porcherie qua. La normalità è che una coppia arrivi pure all'altare vergine, e che vergine, poi si consacri soltanto al marito. È bellissima come cosa fantastica, illibata, dove avete trovato questo troglodita che mi parla addosso? Sono un tuo corregionale, Ruggero. Cosa voterai? Faccio come Parenza. Cosa voti alle prossime regionali, visto che abiti a Verona? Allora, visto che tu non sei nelle condizioni di chiedere a me cosa voto, di solito non voto neanche, quindi il problema no, non no, è... No, però voglio capire una cosa. Voglio capire una cosa. Questo, ma la donna, tornando... come deve essere per te la donna? Cioè, diceva una cara ragazza francese di altri tempi, i tempi buoni, diceva, la ragazza è come l'acqua di Vichy, si vende sigillata. Ma non è che si vende. Ruggero... Così anche tua moglie prende evidentemente. Sai che Ruggero, 15 anni fa, venne a intervenire una mia trasmissione televisiva ad Iceberg, a Tele Lombardia, e si prese una sedia in faccia da Maurizio Paradiso. L'abbiamo raccontato semplicemente 40 volte. Meriterebbe una ripresa. Se il tuo parametro di normalità è Maurizio Paradiso, che si fa di droga e si è sforbiciato i cosiddetti, come diceva qualcuno, francamente non mi sembra. Secondo te, una ragazza. Spieghiamolo questo. Sì, no, va bene, scusami. Maurizio, scusami un attimo. Una persona che vuole iniziare a fare la pornostar comincia a fare il porno. Che consigli gli daresti tu? Perché qui abbiamo collegata una signora che certificato di virginità lo sconsiglio perché no, questa è difficile, no. È difficile, è raro. No, io quello che consiglio semplicemente la preghiera. Insomma, di mettersi a posto la vita, anche se chiaramente. Cioè, secondo te, una malvissuta, una persona che si vuole dedicare al porno, ha deciso di dedicarsi al porno, ha fatto altre cose. Non c'è dubbio che sia una malvissuta, però fin tanto che vive si può convertire. Tutti possiamo cambiare la nostra vita. Benissimo, voglio chiedere a Baima Vitullo, in arte Nina Garco, se si vuole convertire. Buonasera signora Vitullo, in arte Nina Garco. È un po' difficile. Non c'è male, non c'è male. Lei perché, buonasera, buonasera. Lei perché ha deciso di cominciare a fare il porno, signora Garco? Beh, guarda, erano, io sono fin da quando sono bambina che mi piace, comunque ho sempre visto film porno, non a casa, fuori ovviamente con amici, con i fidanzatini, perché comunque aiuta anche il rapporto, no? Allora, forza, sì, ma perché adesso, hai cominciato a girare le tue prime scene? Ho visto anche, ho letto che la vuoi dedicare, queste tue prime scene a signor Berlusconi. Adesso, sì, io adoro Pier Silvio. No, Pier Silvio o no, Silvio, pure. Sono due persone un po' diverse. Silvio adori, cioè adori Silvio. Adoro il tutt'uno. Tutt'uno, uno è il padre, uno è il figlio. Ma adori Silvio, benissimo. A chi vuoi dedicare queste scene hot che giri? Le voglio dedicare a lui, ovviamente, a Silvio. Sì, senti, ma non ho capito, per te la verginità, quando l'hai persa la verginità? Ma guarda, io l'ho persa, fammi ricordare, forse avevo tipo 14 anni, se non erro. Signor Ruggero, una che la perde a 14 anni la verginità, che persona è secondo lei? È una che deve mettersi a posto ferma. Allora, è una che deve mettersi a posto rapidamente, perché io non so adesso che età abbia la signora o signorina dall'accento etrusco, però evidentemente sarebbe buona cosa che da qua a breve sistemasse i suoi conti, anche perché che cosa dovrebbe fare? Sistemare i suoi conti? La vendetta fiorisce, quindi vabbè, comincerà a convertirsi, cioè inizia a fare una vita morigerata, irreprensibile, e comincia a pregare. Ma questa inizia a fare il porno adesso. Trova qualcuno che la sposa. Seconda giovinezza. No, essendo un usato, diciamo molto usato, diciamo, no? Già vedere se trova qualcuno che la sposi, però si può tentare, voglio dire, insomma. Sul no, ma voglio dire, io non credo che la conversione, la preghiera sia l'obiettivo della signora Garco, giusto? Quanti anni ha? Capito, non è l'obiettivo della signora Garco, ma bisogna già di anima la Garco. Inizio a vivere. Adesso inizia a vivere, solo adesso, perché prima che hai fatto, scusa, innanzitutto... Ma prima, ascolta, sai che c'è? La donna per me diventa femmina e donna quando comunque, diciamo, supera i 30 anni. Sì, prima è una bella ragazza, ok, ma non lascia... Brava. Quel sex appeal, quell'odore di zoccola, vabbè, capisci? Quell'odore di zoccola è interessante. Cioè, l'odore di zoccola si riesce a propagare, si riesce a manifestare, si riesce a trasmettere solo dopo i 30 anni. Tu quanti ma ne hai? Come le marmotte. Quanti ne hai? Signora tesoro, non ci chiede mai una vabbè, donna. Vabbè, non diciamo cazzate, dai, adesso stai cominciando a fare scene porno, non vuol dire manco quanti anni hai, non diciamo strozzate. Calcola, ne ho 40. Ne non ho 40. Problemi bene, a bene. Dire la mia età. A 40 anni sei un po' rifatta, dice Ruggero che sei vecchia. Io posso dirti una cosa. Io ho detto vecchia, ho detto molto usata. Molto usata. Ed effettivamente. Ma io non penso, perché se mi vedessi per strada, ti assicuro che mi guarderebbe. Diciamo così. Ma tanto lui non usa niente, quindi non si preoccupa. Al 100%, lo metterei alla prova. Sarà bellissima, no, ma sarà bellissima. Scusa. Però voglio dire, proprio perché ha 40 anni, da quanto è sciupata. E di malvezzi e di esperienze da malvissuta ne ha fatte tante. Metta la testa a posto a 40 anni, non ascolti il duo qua dei due maiali, anzi il trio, no? E cambi vita. Sì, viene nel sacro anche l'anima, non è dall'inferno non si esce più. Hai paura dell'inferno? Hai paura dell'inferno, Nina? Assolutamente no. Non te ne frega un cazzo dell'inferno. Io non ho paura di nulla. Sì, ma dell'inferno sicuramente non hai paura. Cioè, non hai paura sicuramente. Non ho paura perché sinceramente vivo in maniera emozionale ogni situazione. E ti piace, essere zoccola, diciamo la verità. Ti piace fare la troia, no, diciamo. È diverso, mi piace scopare. Ti piace scopare, capito? Allora, ma l'odore da zoccola, questa battuta edificante da santa. Possiamo chiudere il collegamento, mi sembra. No, voglio dire, quando una ti dice mi piace scopare e vuole fare scene porno, è oggettivamente una che emana profumo di zoccola, sono parole sue. Di fronte a questo, caro Ruggero, cosa si può fare? Pregare? Fai una preghiera per la signora, almeno questo o no? Beh, ma bisogna volersi salvare, Giuseppe. No, ma la preghiera, fagliela. Ma io le faccio volentieri la preghiera, ma bisogna Che preghiera dovrebbe fare? Qualunque preghiera, vabbè, sì, che l'Ave Maria, che la Madonna la perdonerà, voglio dire. No, da questo punto di vista esistono esempi, a cominciare appunto, no, dal Vangelo, di prostitute che si sono convertite. No? Quindi, ma questa dire, fa anche, credo che faccia anche un po' di marchette, un po' di prostituzione la fai, cara Nina? Ma io credo che qualsiasi donna in certe situazioni e in certi contesti la mutanda la basta anche senza ricevere qualcosa in cambio. Beh, questo mi pare abbastanza chiaro. Questo diciamo è scontato. Però tu per guadagnarti la pagnotta qualche marchetta la fai, diciamola tutta, o no? Ma guarda, dipende dalle situazioni, dipende dai cachet. Diciamo che io come donna non mi abbasso mai la mutanda se non mi meno conviene. Male, va? Cioè, meno non ti male. Conviene, ti dico la verità, sono molto diretta. Sì, no, cosa voterà lei al prossimo referendum? Ho un motto nella vita, posso parlare? Sì, hai? Sì, prego. Ho un motto nella vita. Qual è il motto? Se ne vale la pena. Sì. La si fa una cosa, se non la vale la pena, non si fa. Cioè, per esempio, se ti offrono 300 euro per una trombata, li accetti o no? Assolutamente no, è troppo basso il cachet. 300 euro per una trombata. Ti per assicuro una... che non mi abbasso. 1000 euro per una notte, li accetti o no? Domanda adesso, vuoi sapere ma troppo? Addirittura. Ti spizza a casa questa per 1000 euro, ti dà anche la macchina. Sì, pure secondo ma me. Ma che cosa stai dicendo? Pure secondo me, pure secondo me, non diciamo cazzate. Ma che dai. Cosa stai dicendo? 1000 euro per una notte li accetti subito. Ve le fate dai. Voi le contrattazioni? Ma vediamo un po', vediamo pure che abbiamo dall'altra parte. Ma 1000 euro a notte? Cruciani, per esempio, con Cruciani quanto costerebbe? Ma che cosa vuoi che ti chiede? Servizio completo, sesso di tutti i tipi? Ma Cruciani però mi fa pure ridere. In che senso, scusami? Nel senso, comunque una persona allegra, solare. E dunque accetteresti 1000 euro? Ma io non li do 1000 euro, che me frega. Sì, ma ultimamente sembra che faccia cilecca, peraltro, per cui stia attenta, che detto che puoi lavorare parecchio. Allora, c'è una scena memorabile, posso dire una, dimmi. Scena memorabile, sì, no? Sì, dimmi. Di Volonté, no? Sì. Il famoso film, no? Indagine sul cittadino. Come di no? Sospetto, bellissimo, no? Allora? Bellissimo. In cui a un certo momento lui è con Florinda Bolkan, si incontra, no? E lui le dice, io non pago per le donne. E quella le fa carino, perché effettivamente, no, come battuta detta così, ecco, credo che anche nel caso di specie, sarebbe meglio che evitasse almeno gli elementi dell'enocidio, cioè no, ma voi mettete d'accordo in privato. Ma non è vero, ma fa benissimo. Ma fa benissimo. Se come fa sicuramente, fa le marchette e si vende, fa la prostituta, la puttana, allora, io lo dico senza offesa. Storia triste, fa però, storia triste. Storia triste. Ma vi posso dire una cosa? Dimmi. Alla fine, se andiamo a riflettere, quello di cui si sta parlando è il lavoro più vecchio. Vabbè, questo lo sappiamo, qui siamo a Messiella Palisse, però lo sappiamo, ma infatti per me fai benissimo se lo fai, ma non, e siccome lo fai sei perfetta, vabbè. Ma non lo sai che cosa posso fare? Ma no, non allora, lo so, insomma, diciamo la verità. In questa situazione qui si sta recitando una parte. No, non c'è nessuna parte, la cosa che voglio capire, sì, ma questo è un altro discorso, la cosa che voglio capire da te, tu fai di tutto, sesso anale lo fai per esempio? Ma io con l'uomo che mi piace, certo che no, lo faccio, ma sulle gruppo? No, ma lo faccio mattina, pomeriggio, sera. Ti piacerebbe fare in un film, che ne so, una gangbang? Con... certo che mi piacerebbe. Ti piacerebbe la gangbang? Parenza, a questa piace la gangbang? Che cosa ma vuoi? Ma chiedele una cosa un po' intima. Lei sa, scusatela. Ruggero, tu sai che cos'è una gangbang? No, francamente mi cogli impreparato. Cioè, non sai che cos'è una gangbang? Non sai che no, cos'è? Io so cos'è una gang, questo sì, nel senso che la gang... nel senso di formazione di banditi gangbang di è una conosco, donna in mezzo e tanti uomini vabbè, intorno vabbè, ma lasciamo perdere, non vedo per quale motivo mi dovrebbe interessare una roba. Posso chiedere una cosa un po' intima alla nostra signora velocemente, dai, sì. Certo, molto intima. Posso fare una domanda a Ruggero? Dimmi, falla. Ma Ruggero, possibile, non ha mai visto delle scene hot? Non ha mai non si è mai fatto una sega, perché dice che bisogna ma di che cosa? Secondo me si ammazza dalla mattina fino alla sera. Bene, possibile, fermi tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.